Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, gentili ascoltatrici, buonasera. Dopo le ferie, eccomi di nuovo con voi per stare in vostra compagnia. Sapete che quasi quasi ne sentivo la mancanza. Comunque, un saluto da Gesi. Io certamente. Buonasera Gesi, buonasera alle nostre amiche ascoltatrici e ascoltatori. Allora, questa sera abbiamo, mamma mia, 4 ospiti, vero Antonio? Un parterre de reine, direbbero i francesi, e allora un poker di gentili signore. Lascio a te la presentazione come cavaliere. Benissimo, allora un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto, che invitiamo alla nostra consueta passeggiata virtuale tra sentimenti, emozioni e ricordi sulle frequenze di 88 e 70 e 94 e 60 in FM. Per chi lo desidera, segnaliamo anche la possibilità di seguire il programma in streaming oppure di effettuare il download dal sito Blu Radio Veneto.it. Con un cordiale saluto al nostro regista. Certo. Allora, bene. Antonio, presentiamo le quattro. Abbiamo due scrittrici e due illustratrici. Perfetto. Allora, facciamo che si presentino loro. Naturalmente. Ecco, allora, vediamo la prima scrittrice. Io sono Laura Simeoni, buonasera a tutti, a tutti gli ascoltatori. Buonasera e benvenuta alla nostra trasmissione. Grazie. Ecco, e l'illustratrice? Io sono Paola Luciani. E buonasera a tutti, naturalmente. Benvenuta anche. Benvenuta. Beh, io così in brevissimo vorrei sapere, siete trevigiane, siete della provincia? Laura Simeoni, trevigiana doc. Benissimo. E Paola Luciani, romana e importata a Treviso. Si sente, ma abita a Treviso? Sì. Benissimo. Da 11 anni. Ok, e allora dopo poi in seguito presentiamo anche le altre due signore, no? Antonio, così dici tu. Benissimo, sì, tranquillo. Adesso presentiamo la prima canzone in programma. D'accordo. Allora, Gabriella Ferri ci farà ascoltare Ho 7 par de scarpe, cioè Tutti al mare. Andiamo tutti al mare, di corsa. '47 vendevo sigarette e facevo lo sciuscià. E mia sorella Pina era una signorina, andava coi basà. E invece mo c'ho 7 par di scarpe e va. E l'ho perso, ma mi è da piagne puro, quando marzo non mi diverto manco, quando scherzo e in questa grande confusione ci sei tu, mi piaci tanto, ma non mi piaci più. Oi bo, le se n'è andata, si è presa la roba sua e io la mia, come se non mi avesse amato mai, ma comunque tutti al mare. Tutti al mare a mostrar le ghiappe ghiare con i pesci in mezzo all'onne, noi andiamo a divertì. Tutti al mare, tutti al mare a mostrar le ghiappe ghiare con nuovo in studio. Antonio, prima di dare la parola alle signore, sì, iniziamo abbiamo con la nostra rubrichetta. Esatto, la nostra rubrica, così senza pretese, storie de che altri. Sì. E cioè come ci possono essere delle barriere linguistiche, ma non quelle dei sentimenti e delle emozioni. Di John Donne, Meditation 17, Devotions upon Emergent Occasions, è riportata nel romanzo Per chi suona la campana di Ernest Hemingway. No man is an island. No man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. If a cloud be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as any manner of thy friends or of thine own were. Any man's death diminishes me, because I'm involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Benissimo, qui abbiamo un poliglotta, ragazze. Sì, qui lui sa lo spagnolo, il tedesco, il francese, l'inglese. Boh, adesso leggiamo la versione italiana. Devozioni. Nessun uomo è un'isola, completo in se stesso. Ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. Se anche solo una zolla venisse lavata via dal mare, l'Europa ne sarebbe diminuita, come se le mancasse un promontorio, come se venisse a mancare una dimora di amici tuoi o la tua stessa casa. La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell'umanità. E dunque non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Essa suona per te. Adesso diamo la parola alle due ospiti, signora, le prime ospiti. Due ospiti. Prego. Però non è giusto, ci avete steso con questa poesia. No, assolutamente. Bellissima. Bella, vero? Bellissima. Tra l'altro io ricordo che nel film L'attimo fuggente con Robin Williams veniva letta proprio ai ragazzi. The Dead Poets Society. Esatto. Si parla di sentimenti, si parla di emozioni. È sempre universali, sicuramente. Ed è quello che abbiamo voluto fare con il nostro libro. Esatto, al di là delle barriere. Perfetto, prego. Ha come meraviglia. Questo è un libro di poesie scritto per i ragazzi, però diciamo i ragazzi da 0 a 99 anni, 100, 105, finché si vuole, perché il linguaggio dei sentimenti, il linguaggio delle emozioni, secondo noi è universale. Ed è un libro che ha inaugurato una collana per ragazzi nuova della Biblioteca dei Leoni. Paolo Ruffilli ha voluto fortemente questo libro di poesia perché, anche se forse è impopolare la poesia un po' oggi, nel senso che viene acquistata molto meno della letteratura in prosa, del racconto, del romanzo, però a nostro avviso è un linguaggio comunque che va dritto al cuore, ecco. Quindi abbiamo fatto una scelta un po' controcorrente, questo per quanto riguarda la scelta stilistica del linguaggio. E poi c'è tutta la parte delle immagini, vero Paola? Sì, una delle particolarità secondo me di un libro che appunto, come diceva Laura, per un pubblico vasto è che è un libro in bianco e nero e qui cioè il bianco e nero non è cioè ci sono anche le sfumature del grigio e serve proprio a dare lo stimolo quasi, no? all'immaginazione dei colori. In più tutto ruota un po' dietro la simbologia dell'amore, no, cioè l'amore e l'odio, e dove non sempre viene identificato come odio nero e amore bianco, ma anche viceversa, cioè non ci sono, esce un po' dagli stereotipi, diciamo, comuni che parlano dei colori. Io mi sono divertita soprattutto graficamente con le lettere a giocare un po' con alcune parole delle poesie di Laura e in più ho messo sì, dei personaggi dentro così che potessero accompagnare al meglio il testo. Benissimo. Allora sentiamo qualche piccolo Beh, era difficile scegliere perché già abbiamo dovuto fare una cernita, i sentimenti, le sfumature sono tantissime e tantissimi. Ma io partirei prima con l'odio, citato prima da Paola Luciani, ci sono appunto delle sfumature taoiste nel nostro libro, quindi quello che è nero non è sempre nero, c'è un po' di bianco e viceversa. L'odio smisurato non conosce confini, eppure li traccia, alza steccati, muri, barricate, e si trova rinchiuso nel suo stesso recinto. Nell'odio confuso c'è l'io che gorgoglia e rischia d'affogare. Ovviamente qui Paola ha trasformato le parole, ha giocato con le parole, a me è divertita tantissimo l'immagine dell'io che sott'acqua appunto gorgoglia in mezzo ai pesciolini, e quindi si strammatizzano anche l'aspetto oscuro. Poi posso leggere la fiducia? Certo, certo. La fiducia è uno dei sentimenti che a me piace di più perché apre il cuore alla speranza, e di speranza oggi direi abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno. Questa è la fiducia. Una carezza di sole, uno spruzzo di cielo, inaspettato sorriso, dilaga come acqua leggera la vita. Bella, bella, molto, molto carina. E poi? Adesso vediamo qualcos'altro. Vediamo quella che piace tanto a Paola, la compassione, la simpatia. Piace anche a Paolo Ruffilli questa in realtà. Allora, sentiamo. Sì, è molto breve. Abbiamo voluto dare alla simpatia, riportare la simpatia al suo significato originale, originario, che non è quello superficiale di mi stai simpatico, mi piaci, mi fai ridere. È qualcosa di più profondo. Sento ciò che senti. È un simile sentire, con passione, compassione. Insomma, un po' un gioco di parole, di parole. Sì, calembour. Sì, io volevo anche dire che le poesie di Laura che sono piuttosto brevi, cioè alcune molto brevi, ma essenziali, e hanno anche uno spessore, poi, perché dietro alla semplicità si nasconde poi sempre una profondità. E lui, di questa poesia qua ho rappresentato la cosa che mi è venuta più naturale alla fine, una ragazza che aiuta un cagnolino, in questo caso, o comunque lo tiene in braccio in una notte di neve in cui c'è così, e quindi crea questo abbraccio di tenerezza che io la vedo un po' così, diciamo. Bene. Anche la compassione come un abbraccio. Bene. E la parola, diciamo, che ho voluto così sottolineare era simile, questo, ecco. Sì, sì, ecco. Bene, proseguiamo con altre. Andiamo al Tao, abbiamo citato più volte il Tao, no? Questo simbolo che riassume un po' l'universo secondo la filosofia orientale, quindi nella parte nera c'è un po' di bianco, nella parte bianca c'è un po' di nero, ma non solo, non sono divise in metà in maniera schematica come metà sfere, ma c'è il movimento sinuoso che è quello della vita. Della vita che si muove. Allora, qui ci sono state profonde discussioni tra scrittrice e illustratrice, nel senso che non sempre è facile, no? Uno scrive e immagina la rappresentazione, l'illustratrice si trova di fronte a un testo e che forse non condivide. E qui abbiamo battagliato in maniera positiva, nel senso, insomma, abbiamo discusso molto, perché io il Tao, ovvero l'indifferenza, l'ho messa come linea che divide il bianco dal nero del Tao. Quindi c'è un bianco, c'è un nero. E c'è l'indifferenza in mezzo. Esatto. E l'ho titolata e l'ho espressa così. L'indifferenza è la sottile linea grigia che divide la gioia e il dolore. E qui c'è stata appunto una presa di posizione da parte di Paola, che sentiva l'indifferenza come... Paola, vuol dire? Non ti piaceva molto questa cosa. Beh, vabbè, insomma, adesso non esageriamo sulla presa di posizione, no, assolutamente. Mi è piaciuto invece parlarne, perché avevamo semplicemente due visioni differenti, e, insomma, è qualcosa ci deve essere di differente, no? E quindi, ma l'indifferenza, perché la vedevo particolarmente negativa, insomma, come aspetto, mentre lei l'aveva inserita in un contesto che a me apparentemente sembrava neutrale, e allora è per quello che così abbiamo un po' discusso. Sì, discusso, abbiamo approfondito semplicemente poi quello che lei voleva dire, quindi alla fine va benissimo così. Volevo intervenire un attimo, a me sembra che ci sia una distinzione tra come posso dire, l'Occidente manicheo è proprio questa morbidezza orientale, o sbaglio? No, è perfetto. In realtà l'Occidente manicheo forse è un accidente manicheo dei giorni nostri, perché la filosofia occidentale antica era molto più realistica nei confronti della vita. Siamo noi forse che dividiamo con l'accetta più... A partire dai lumi, naturalmente, dell'illuminismo, eccetera. Esatto, ecco, quando sì, la ragione ha preso forse troppo il sopravvento. Sono assolutamente d'accordo, comunque, sì. Bene, allora proseguiamo con... Andiamo alla paura. Questo è un altro sentimento, poi lo sentiremo anche affrontato nel libro che segue, dove si parla di una paura in particolare, mm-hmm, che è la paura del buio. Io ho parlato della paura in generale, che a mio avviso è: pennello nero uccide i colori, spalanca buchi neri che inghiottono stelle, dipinge la notte che occhi sbarrati su bagliori di fantasmi nel silenzio che grida. Bella. È bellissima, sì, sì, l'immagine che ha dato, secondo me, anche Paola, sì, di un pennello gigante che toglie il colore che non c'è, perché noi lavoriamo sul bianco e nero, però dentro di noi il colore. Certo. E il pennello che copre tutto e non ci fa più, insomma, gustare, no? Il nostro sentire, cioè l'anima che viene espressa, sì, oscurata, sì, ecco, sì. Bene, ragazze, ci fermiamo un momentino per un'altra canzone, che è una favola blu cantata da Claudio Baglioni. Una tavola blu, il mare con tante barche laggiù, forse l'estate è già qui, c'è il sole ma non per tutti è così. Stesse facce vedrò, ragazzi che si ritrovano qui. Un grande prato sarà la spiaggia quando la sera verrà. Una favola blu, il tuo amore per me. Penso e ripenso che ormai ho perduto te. Thank you. penso che mai ho perduto te. Ed eccoci di nuovo in studio con le nostre ospiti, alle quali chiediamo una breve biografia, così succinta, ma con molti contenuti. Cosa facciamo nella vita, insomma? Esatto. Proprio così. Allora, il mio primo mestiere è quello di lavorare nei giornali, quindi sono giornalista, lavoro attualmente per il Gazzettino come esterna, freelance, e adesso in pagina della cultura dopo aver affrontato sanità e sociale per tantissimi anni. E in campo, diciamo, letterario, questo è il primo libro di poesie, la prima possibilità che mi ha dato appunto l'LCE Ruffilli di cimentarmi in questo campo, che sembra semplice invece è complesso, è difficilissimo, perché la poesia deve sintetizzare e non come magari il giornalista tende a fare, ad essere leggermente prolisso, no? E invece a livello di libri ho pubblicato già, iniziato con Santi 40, con Ferruccio Mazzariol. Ah, sì, lo conosco. E Fiabe e leggende, una collana che è appunto dedicata alla riscoperta delle antiche storie del nostro territorio. E su questa scia ho continuato anche con altri editori e lavorando con tanti illustratori che ho scoperto essere straordinari compagni di viaggio. Bene. Sono specializzata nel Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, in cinema d'animazione, e nel 1990, quindi da allora mi occupo di cinema d'animazione, cartoni animati in poche parole, e ho sempre lavorato in questo ambito, e in più parallelamente faccio anche l'illustratrice e dipingo, diciamo, sì, cerco di darmi un po' da fare, più che altro perché mi viene più istintivo fare che stare ferma, e quindi per me invece questa è la prima esperienza a livello editoriale, e io infatti ringrazio sia Laura che Paolo Ruffilli, che, ma anche l'editore Biblioteca dei Leoni, che ci ha dato questa opportunità naturalmente di poter sperimentare e in qualche modo speriamo di contribuire anche nella società con qualcosa di positivo. L'importante è che dia soddisfazioni, che dia anche a voi più che altro, prima di tutto. Sì, io tra l'altro volevo appunto dire che ho appena terminato un nuovo libro, sempre con la Biblioteca dei Leoni, che si chiama La scatola arancione e uscirà a fine settembre. Ma allora l'ha scritto lei il testo o ha solo illustrato? Questa volta, ahimè, ho scritto anche il testo. E anche le illustrazioni, ha fatto tutto? Sì, ho fatto tutto. Ho capito. Bene, continuiamo a leggere qualcosina. Posso dire una cosa sul rapporto tra testo e immagine? Io e Paola ci siamo conosciuti per via del mio mestiere, nel senso che il Gazzettino mi ha spedito a Istrana alla manifestazione internazionale Fiati Corti, ed è un festival di cortometraggi specializzato. Lì ho conosciuto Paola e ho visto un suo video che ha vinto, tra l'altro, che non ha detto, ma ha vinto anche dei premi prestigiosi, che si chiama Island, e mi ha colpito perché attraverso la radio è difficile, no, dare la sensazione delle immagini di Paola, che sono delle immagini evocative, suggestive, struggenti, e quindi ho detto facciamo qualcosa insieme, e lì è nata la nostra avventura, la nostra collaborazione. Ecco, volevo dire questo perché poi dietro un libro ci sono sempre, no, dei rapporti umani, ci sono persone, certo. Incontri. Benissimo, allora proseguiamo magari ancora con qualche, vediamo. Leggiamo l'ultima Sì. L'ultima. Va bene. Ci siamo. L'ultima è La meraviglia, che è il sentimento che ha dato il titolo al libro. Al libro, è il sentimento principe, secondo me. Parlavamo prima di filosofi, no? Io mi ero scritta questa cosa, anch'io, vedi, sono preparata la frase. Allora, questo è Platone. E dice: è proprio del filosofo questo, di essere pieno di meraviglia. Né altro cominciamento ha il filosofare che questo. Principio di ogni scoperta anche per i bambini, poi parleremo appunto anche di bambini piccoli, anzi parleranno le altre autrici di bambini piccoli, la meraviglia è il motore della conoscenza. Allora, così l'ho pensata io la meraviglia. È nuovo, è diverso, è magico, un seme che buca la terra e spinge, si stira, si allunga e sbadiglia. Può forse toccare il cielo? Molto carino. E l'illustrazione? Che cosa? L'illustrazione forse magari sembrerà un po' ovvia, però mi è venuto proprio istintivo fare una ragazza che innaffia un piccolo seme e questo seme fa nascere, c'è un germoglio che va verso il cielo. E in conclusione chiediamo alle nostre ospiti quali sono i progetti per il prossimo futuro. Beh, intanto cerchiamo, come dire, di divulgare un po' questo libro, quindi in un certo senso cerchiamo di promuoverlo dove è possibile, anzi chiunque gli piacerebbe averci come ospiti, noi siamo ben felici di esserci. E poi vabbè, io appunto, come dicevo prima, avrò un altro libro, in più sto lavorando a un nuovo progetto di animazione che è un cortometraggio d'autore e tra l'altro sto cercando anche degli sponsor e vabbè, questa è una parentesi in più. Ma l'avete già presentato questo libro? Il libro sì, è stato già presentato, dunque è stato presentato al centro a Paese, che c'è un centro fondativo. È la Fondazione Nanno Moretti. Poi faremo anche in autunno, perché adesso la stagione estiva porta al mare, come abbiamo sentito prima. Probabilmente presenteremo allo Spazio Paraggi e Paola, che non ha voluto dirlo, ma lo dico io, lo presenta a Rieti e farà dei laboratori anche con dei bimbi. Benissimo. Bene. Non ci resta che ringraziarvi sentitamente per il vostro intervento e naturalmente vi cooptiamo per una prossima volta. Per una prossima volta, certo. Grazie. Certo. Grazie di tutto, e veramente brave. Grazie. Bene, adesso ci ascoltiamo la terza canzone, che è cantata da Fiorella Bannoia ed è intitolata Cercami. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più, tornerò, solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, com'è finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Mai ti aspetti? Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. Fidati che hanno un peso gli anni miei, tu fidati e sorprese non ne avrai. sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi di cercarmi non smettere, no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io resto qui mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque, eccoci di nuovo in studio con il secondo gruppo delle nostre ospiti. Abbiamo Paola Barchetti e Cinzia Mardegan. Buonasera a voi e buonasera, benvenute. Buonasera e benvenute. Ci raccontate qualcosa di voi? Buonasera innanzitutto, buonasera a tutti. Sono Cinzia io. Sono una mamma, prima di tutto, di due bellissimi figli. E sono un'insegnante della scuola dell'infanzia. Io sono Paola Marchetti e anch'io lavoro alla scuola dell'infanzia di Salvatronda come Cinzia, però lavoro a nido integrato. E, diciamo che ci siamo incontrate 13 anni fa in questa scuola perché veniamo da esperienze con l'infanzia. E quindi vi siete trovate e avete cominciato a collaborare. Noi abbiamo la passione della lettura animata per bambini e anche di teatrini, di laboratori creativi con i bambini. Abbiamo questa passione in comune. 13 anni fa ci siamo conosciute in questa scuola dell'infanzia di Salvatronda e abbiamo cominciato a concretizzare anche questa passione, no? Perché trovare una compagna che la pensa come te, che condivida gli stessi interessi, condivida, è molto, molto, diventa più concretizzi questa cosa, ecco. Sì, diventa più collaborativa. Esatto. E Paola è un vulcano di idee. Ci completiamo. Bisogna ogni tanto fermarla. Ogni tanto bisogna fermarla. Io sono più io riesco più a concretizzare. Lei ha 10.000 idee, ecco. E questo ci compensa, ci aiuta a diventare coppia, ecco. Diciamo che quello, esatto, quello che noi due lavoriamo proprio in simbiosi, perché dove non arrivo io arriva lei, cioè proprio riusciamo veramente, abbiamo trovato una sintonia incredibile. Benissimo. Infatti anche questo libro che abbiamo scritto, Il Signor Buio, la storia del Signor Buio, è nato così per caso, nel senso che non è che noi abbiamo scritto questa storia per farlo diventare un libro, ecco. Paola aveva iniziato, doveva proporre ai bambini questo laboratorio di luce e ombre e ha scritto questa storia e mi fa: guarda Cinzia, io dovrei fare questa cosa con i bambini, mi potresti illustrare così, dai che sei brava a disegnare, fammi questi disegni di questo Signor Buio che devo farlo vedere ai bambini. Ho detto vabbè, se ho tempo te lo faccio, se no no, gli ho detto. E così invece ho cominciato a disegnarlo e soprattutto ho cominciato a chiedere ai bambini com'è il buio secondo loro. E tutti i bambini mi hanno detto: ah, ma il buio è nero. Punto, non c'era grigio, non c'era blu, non c'era niente, tutto, ecco. Nero. Niente sfumature. Esatto, e allora ho iniziato a disegnarlo così e a Paola è piaciuto, per fortuna è piaciuto e poi lei l'ha riportato nel suo laboratorio di luce e ombre. Esatto, sì, infatti è nato all'interno di questo laboratorio perché appunto avevo questo progetto sulle luci e ombre, però avevo dei bambini, stiamo parlando di un'età di 2 anni e mezzo, che avevano paura del buio, quindi prima di spegnere le luci bisognava trovare, aiutarli a superare un po' questa paura. Esorcizzare la paura. Esatto, esorcizzare. E quindi niente, mi è venuto in mente di scrivere questa storia anche perché noi solitamente usiamo tante volte le storie proprio per iniziare i laboratori, aiutano proprio i bambini a introdurli nel laboratorio. E così mi è venuto in mente questo signor buio che era triste perché i bambini avevano paura di lui e quindi lui era molto triste perché invece vuole giocare con i bambini. E da qui è nata questa cosa e questo libro è proprio l'apertura del laboratorio e viene raccontato. Adesso in questo momento, per esempio, sto facendo di nuovo il laboratorio e ho iniziato a leggere la storia prima di spegnere la luce. Quindi presentiamo questo signor buio simpatico, ecco. Bellissimo. Bellissimo. E allora sentiamo alcuni esempi, diciamo, di questa narrazione, ecco. Tu, Antonio, hai paura del buio? Un tempo, non ora. Beh, la storia inizia così. Ciao, bambini, mi vedete? Ops, scusate, ho dimenticato di aprire gli occhi. E qui, anche qui, io Paola, usiamo anche un teatrino di luce e ombre. E c'è un telo nero ed è tutto buio, perché si è dimenticato di aprire gli occhi. Quando li apre si accende una luce dietro questo telo e ci sono un sacco di giochi di ombre e di luci. Luci. Si vede il signor buio... Cioè si lavora proprio con le ombre. Quando si accende la luce, allora il signor buio dice: eccomi qua, sono il signor buio. E sono molto triste perché i bambini hanno paura di me. Credono che nel buio si nascondano mostri o peggio ancora, lupi cattivi. E così, quando arrivo, piangono, strillano e mi mandano via. Ma io non sono cattivo. Non è assolutamente vero che nascondo mostri e lupi. Voglio essere vostro amico e giocare con voi. Qui il libro continua. Il signor buio presenta la signora Luce. La signora Luce, che è la sua amica, e soprattutto dice ai bambini che nel buio ci sono un sacco di cose meravigliose, come le stelle. Mi viene in mente, quali sono i risultati che voi cogliete da questi laboratori, da questo tipo di narrazione, diciamo? Notate qualche, come posso dire, ricettività da parte dei bambini, qualcosa che possa essere replicato, ripetuto in altre situazioni? Beh, io credo che l'uso del libro per introdurre i laboratori sia molto valido perché proprio aiuta i bambini a entrare nel laboratorio. In questo caso, come dicevamo, i bambini fanno conoscenza con questo signor buio e quindi affrontano anche i giochi, cioè sanno già cosa li aspetta perché dopo io sul libro ho introdotto le varie parti del laboratorio che sono l'incontro con le lucciole, con le stelle e la luna, con le ombre cinesi, quindi il libro segue un po' le tappe del laboratorio, quindi loro già hanno una prima conoscenza di quello che si andrà a fare. I bambini hanno bisogno di sapere, di conoscere quello che vanno a fare. Certo, perché e anche sono curiosi i bambini. Sì. E soprattutto devono giocare con le proprie paure, non evitargliele le paure, ma ecco. Io devo accompagnare il bambino ad affrontarle. Col bambino per affrontare le paure è attraverso il gioco. Io credo che sia questo determinante libro, questo. Esatto. Questo libro ti permette di giocare, non solo noi come insegnanti o educatori, ma anche i genitori stessi, prima di andare a letto, la storiella della buonanotte. Tu puoi raccontare questa storia, prendere una semplice piletta e giocare nel soffitto della camera del bambino e giocare a... Anche perché la ripetizione mi pare che sia fondamentale, sì, esatto, nel senso per i bambini cioè, hanno più di molta viene ripetuto più esatto. Rimane impresso, impresso viene sedimentato nel loro inconscio, eccetera. E soprattutto giocare. E giocare è una dimensione ludica che abbiamo perso, mi pare, esatto, nel nostro presente, o sbaglio? No, qual è la vostra esperienza? No, è vero che questi bambini purtroppo siamo... Troppo televisione, troppo computer, sì. E abbiamo perso delle dimensioni molto importanti del gioco, dello sperimentare proprio col corpo, con le emozioni, con tutto quello che fa parte, insomma, della... Sì, adesso anche i bambini una volta andavano a giocare in piazza, in strada, andavano a giocare fuori all'aperto, adesso purtroppo se ne sentono pochi bambini. Una domanda, è possibile recuperare questa dimensione onirica, diciamo, questa dimensione di un'epoca trascorsa, magari trasformandola, magari dando altre valenze, eccetera, però recuperando quei valori che almeno apparentemente abbiamo perso, o forse abbiamo messo nell'armadio come dei vestiti fuori stagione? Beh, io penso che noi, prima di tutto i genitori, dovrebbero farsi questa domanda e fermarsi un attimo, secondo me, più che i bambini. Certamente. Dovrebbero i genitori fermarsi e dare magari meno come spazio, posso dire, la televisione, esatto, queste cose qua, il computer, certo, esatto, certo. E vivere magari anche dopo cena, buttarsi sul tappeto, ma giocare. Certamente non è più come una volta. Io mi ricordo, insomma, ho 49 anni e uscivo da casa alle 4 fino alle 8, 9 a giocare, cose che adesso, io sono mamma, se mio figlio non rientra alle 6:30 già chiamo i carabinieri. Però i tempi sono cambiati. Sono cambiati i tempi. Però visto che sono cambiati i tempi, trovo altri mezzi. Ecco. Questo è il punto, altre metodologie, esatto. Ci fermiamo per una canzone. Adesso Julio Iglesias. Crazy, eccolo qua. Crazy. Come si dice? Crazy, matto. Matto, ecco. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? In the world did I do? Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy Ed eccoci di nuovo in studio con le nostre ospiti, alle quali lasciamo la parola. Volevamo anche dire che il libro è accompagnato da un bellissimo CD dove c'è la storia narrata, che la voce è quella di Cinzia, anche se non sembra, modificata dal nostro amico Romy, che poi ha ha scritto tra l'altro anche una canzone bellissima e, che è presente anche nel CD, quindi ai bambini è piaciuta molto questa canzone, molto gettonata al nostro asilo, la cantano. Che bello. Un'opera multimediale. Sì, quindi. Sì, quindi è accompagnato anche volendo la storia, si può anche seguire sul CD. Bene. Benissimo, mentre per quanto concerne i vostri laboratori, che è un qualcosa di molto, come dire, interessante, eccetera, che attiene anche a quest'opera, come funzionano, come si svolgono? Allora, noi stiamo facendo delle presentazioni in giro, abbiamo fatto varie presentazioni a Vedelago, siamo andati alla biblioteca di Castelfranco e adesso faremo la prossima Salvatronda proprio sul nostro asilo, sì. Perché c'è la sagra di Salvatronda, quindi giustamente non potevamo mancare là. E il libro viene presentato con un laboratorio, come diceva prima Cinzia, con un pannello dove si lavora proprio con le luci e ombre. Cinzia racconta la storia e io lavoro dietro con le luci, con quindi le luci. Che bello. Diciamo che i bambini è piaciuto molto questa presentazione. Sono entusiasti. Esatto, le luci sono una cosa piace molto ai bambini. E poi, finita la storia, molto breve, facciamo due laboratori. Cinzia si occupa di un laboratorio creativo dove realizziamo un piccolo segnalibro del signor Buio, con illustrato il signor Buio, mentre Paola con l'altro gruppo gioca con le luci e ombre con i bambini. Sì, diciamo che è un piccolo percorso, ovviamente molto piccolo, di luci. Quello che io faccio in asilo lo faccio in maniera molto ristretta, ecco, con i bambini, quindi proponiamo anche questo. Ecco. Noi abbiamo pensato a questo tipo di presentazione del libro, siccome il libro è per bambini, per cui abbiamo pensato di proporlo in modo ludico. Certo. Perché certo. L'utente è il bambino. Assolutamente. Per cui credo che sia fondamentale anche per mantenere. Mi pare che siate le prime che hanno presentato romanzi per ragazzi, cose per ragazzi, della Biblioteca del Leone. Sì, sì, in effetti siamo le prime, e soprattutto che il libro si è indirizzato dai 2 anni mi sembra, sì. Paola? Sì, che sì. Paolo Orfilli diceva che insomma siamo le prime. Quindi per un pubblico esigente, devo dire, perché esigente in termini proprio di conoscenza, di capacità anche critica e compagnia. Sì, là, se ne vai male te lo dicono subito, mica aspettano la recensione nel giornale. Noi abbiamo il vantaggio che sperimentiamo direttamente in asilo, quindi siamo andati un po' sul sicuro, devo dire, su questa cosa, perché appunto aveva avuto successo la storia in asilo, quindi sapevamo cosa stavamo affrontando, ecco. Certo. Ma il bambino, scusate. No, prego. Ma il bambino che ha 2 o 3 anni, come la prende? Come reagisce a questa storia? Beh, guardi, allora, per quanto riguarda dove lavoriamo noi, alla scuola dell'infanzia, ci conoscono, hanno fiducia in noi, per cui è molto facile presentarla e giocarci con il buio e soprattutto giocare con questa storia. Abbiamo visto che le varie presentazioni che abbiamo fatto, sia anche in libreria a Campo San Piero, anche a Campo San Piero, dimenticato, non conoscevamo, sì, i bambini, loro non conoscevano noi, e soprattutto abbiamo dovuto spegnere la luce a un certo punto. Non è mai il buio completo, certo. Però non c'è la luce, ecco. E la maggior parte, diciamo che è andata molto bene, sì. Una volta un bambino si è messo a piangere, okay. E che là proprio, sì, mi sono fermata un attimo, ho cercato di dire ma guarda che sono io che sto parlando, dietro a questo pannello c'è la Paola che l'hai conosciuta prima, che si muove, lei che muove le luci, certo. Però insomma sono accompagnati, sì, anche dai genitori, non è che sono, sì, da soli, poi, per cui esatto. magari la mamma poi può si capitare, è avvicinata, ma è fisiologico, diciamo, esatto, la questione. Però dopo ha avuto successo, esatto, non aveva più paura del buio dopo, però è questo, la storia. Ma è perché magari noi sottovalutiamo questa la valenza, come dire, di educazione proprio alla vita in questi termini. Io credo che sia fondamentale proprio. Opere come queste, mi pare che ci sia qualcosa da leggere ancora, o sbaglio? Sì, c'è una seconda parte, ci eravamo fermati alla luce. Alla luce, esatto. Sì, allora il buio continua e dice, rivolto ai bambini, dice: forse non lo sapete, ma sono molto amico della signora Luce. Ciao, signor Buio, sono la signora Luce, giochiamo insieme? Insieme inventiamo giochi bellissimi e ci divertiamo tantissimo con le ombre cinesi. Nel buio ci sono un sacco di cose splendide. Ci sono le lucciole, la luna e le stelle, ma soprattutto ci sono i bimbi che dormono e fanno tanti bei sogni. Anche nell'ultima pagina, dove c'è questo bambino che dorme felice, no? Non piange più, e ho rappresentato il sogno che sta facendo e ho disegnato una caramella, un dono e un lecca lecca. Non li ho messi a caso, nel senso, ho chiesto ai bambini prima di disegnarlo, ho detto: ma per voi quali sono i bei sogni? E i bambini mi hanno detto le caramelle, i regali e il lecca lecca. E io li ho disegnati. Possiamo definirla un'opera partecipata. Esatto. Sì, molto, molto. Esatto. Che belli che sono i bambini. Straordinari. Sì. È finito il libro, no? Sì, è finito. Però è in uscita il prossimo, anche noi perfetto. Pubblicheremo un altro libro tra poco. Che sarà intitolato? Plof. Ritengo che l'uditorio sarà lo stesso, quindi la partecipazione sì, lasciamo sarà... viva l'immaginazione, certo. Con Plof. Io mi chiedo se potesse essere fatto, adesso è un qualcosa che mi viene in mente così in modo estemporaneo, un'opera del genere per gradualmente educare bambini e ragazzi al cambio di stagione, cioè dall'infanzia all'adolescenza e compagnia. Io ritengo che sia fondamentale un qualcosa del genere, se si potesse visualizzare, cioè rappresentare, perché ci sarebbe la questione del déjà vu, nel senso che verrebbe riproposta una situazione che è già stata risolta in partenza. E quindi, cioè, il fatto di non essere trasgressivi e tutte queste cose, commisurato all'età e cose di questo tipo, potrebbe essere un progetto, un qualcosa di questa natura? Io sono mamma di due adolescenti, per cui la sto vivendo questa età, ecco. E l'altro giorno ho anche scritto: togliamo perché c'è l'adolescenza, perché esiste questa adolescenza. Passiamo dall'infanzia e diventiamo adulti subito. È difficile, molto difficile. Per quanto riguarda i genitori, bisognerebbe pensare veramente, dobbiamo pensare, è stata una bella idea quella che ha dato. Io vi lancio questa sfida, esatto. Diciamo qui Corum Populo, ecco. E noi la cogliamo. Benissimo. E poi ci penseremo. Io veramente ritengo che sia importante. E con questa considerazione, diciamo, non possiamo fare altro che ringraziarvi per il vostro intervento, che è stato estremamente efficace e divertente, eccetera, e darvi appuntamento per una prossima volta. Avete visto che avete fatto benissimo? Siete state bravissime anche voi? Emozionatissime. Molto, prima esperienza in radio. Abbiamo rotto il ghiaccio. Comunque anch'io vi ringrazio e complimenti, tanti complimenti proprio. Grazie. E alla prossima volta. Anche noi salutiamo e io come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.